Ci colleghiamo adesso con Antonio Dini, che si dovrebbe trovare dentro alla scuola. Sì, sono entrato da pochissimi secondi, da due minuti. Sono salito al primo, al secondo, adesso sono al terzo piano. Sto verificando, hanno praticamente rovesciato e distrutto tutti i computer, tutti i televisori. È pieno di oggetti personali rovesciati all'interno dei corridoi. E c'è una serie di chiazze di sangue al piano di sopra, e cioè all'ultimo piano, e anche alcune piccole tracce ai piani più bassi, pellicole delle macchine fotografiche strappate, vi ho già detto computer, televisore, una situazione di distruzione degli effetti personali e delle cose che erano in possesso delle persone. Non ho trovato nessuno all'interno della scuola, sono entrato fra i primissimi, fra parentesi, quindi proprio non c'era nessuno per nessuno dei piani che abbiamo percorso. All'altezza del terzo piano ci sono i corridoi che portano alle varie aule, dove sono messi ordinatamente di lato una serie di banchi sovrapposti. Nel mezzo effetti personali, oggetti, asciugamani, camicie, ci sono alcuni maglioni di pile buttati per terra, altri effetti come trucchi di una ragazza, una situazione di caos con effetti personali sparpagliati, banchi buttati per terra nei punti in cui effettivamente c'erano delle persone. Nei corridoi invece dove non c'era nessuno, la polizia non ha operato nessun tipo di distruzione delle suppellettili, ecco. Quando sembrava fosse finito tutto, a sera, c'era anche, nonostante tutto quello che avevo vissuto, un momento nel quale mi stavo rilassando, stava scalando un po' la tensione, invece è arrivata la telefonata a mezzanotte, che avevano fatto eruzione dentro al media center del Genoa Social Forum, e quando sono arrivato all'interno della scuola ho fotografato le chiazze di sangue che sono rimaste, gli indumenti gettati a terra, gli oggetti delle persone, devo dire che lì sono crollato, non c'è stata, non sono più riuscito a creare quel distacco in nessun modo, e mi sono fermato, e poi infatti sono partito subito la mattina dopo. Ma al di là degli oggetti, ovviamente c'erano queste chiazze di sangue, ed ogni chiazza di sangue portava con sé la storia, la sua storia, ed era sangue con capelli sul muro, chiazze per terra, chiazze di dita che si trascinano, di gente che tenta di scappare, di... Così, non mi era mai capitato prima. Non avevo mai visto nulla di questo genere. E infatti a Genova ho avuto veramente paura. Forse per la prima volta. Così l'operazione militare di questa sera è partita da una serie di interrogatori di persone che sono state fermate nella giornata di ieri e di oggi, appartenenti al cosiddetto blocco nero, o black bloc a dir si voglia, e sempre il dottor Sgalla, portavoce del capo polizia, afferma che grazie a questa attività investigativa si è arrivata a individuare all'interno del media center la presenza di appartenenti a questo blocco nero e la presenza anche di armi. Per armi la polizia intende le bottiglie Molotov, due credo siano state quelle segnalate, e poi altri oggetti che sarebbero stati portati via in due sacche nere. Nelle due sacche, oltre alle cosiddette armi o agli oggetti, ci sarebbero anche le divise, quindi il vestiario di colore nero, che è stato notato in questi giorni agli appartenenti di questo blocco nero. Quindi questa è la versione che dà la questura. Aggiunge che il sangue era raggrumato, quindi non parla di sangue fresco, e che anzi sono stati così solerti da prestare le prime cure a delle persone che necessitavano ma non si azzardavano ad andare al pronto soccorso. Sono arrivati in ospedale, mi hanno fatto i punti alla testa, mi hanno fatto le lastre, mi sono attaccata a una sedia e dicevo che non mi sarei mossa di lì se non arrivava il mio avvocato. Poi invece, vabbè, questo poliziotto mi ha detto che se non mi alzavo io, andavo io con gli altri, mi avrebbe preso lui di peso, e quindi sono andata in questo angolo dell'ospedale insieme a questi altri ragazzi, anche messi molto peggio di me, tutti con le braccia ingessate, gambe ingessate. Poi c'era questa ragazza su una brandina e gli avevano spaccato tutti i denti con i manganelli, la bocca era gonfissima e perdeva sangue dalla bocca, e io continuavo a dire che insomma che forse doveva tornare in ospedale. Era una ragazza italiana o straniera? Straniera.